L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale affronteremo due argomenti diversi. Parleremo dapprima di prodotti biologici, il che significa in gran parte prodotti alimentari, ma non solo, e nella seconda parte parleremo invece di ecomusei. Il nostro primo ospite, ve lo presento subito, è il presidente di Assobio, Roberto Zanoni. Benvenuto. Grazie, buona giornata. E le chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori che associazione è Assobio. Dal nome un po' si intuisce, però insomma vediamo che cosa fate. Ma Assobio è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione dei Prodotti Biologici. È nata circa 10 anni fa e attualmente aderiscono circa 65 aziende che sono un po' le più importanti del settore della distribuzione e trasformazione dei prodotti biologici. E proprio recentemente, nell'assemblea che si è tenuta pochi giorni fa, abbiamo modificato lo statuto proprio per inserire anche le catene della grande distribuzione, che sono sempre più interessate alla vendita e alla distribuzione dei prodotti biologici. Ora, ovviamente tutti pensiamo principalmente ai prodotti alimentari, però io ho dato una scorsa ai vostri soci e non ci sono solo coloro che si occupano di prodotti alimentari, perché ormai il biologico è un po' in tanti prodotti che noi utilizziamo quotidianamente, no? Sì, c'è anche tutto il mondo della cosmetica, anche se però questa non è ancora completamente normata da una legge europea, mentre sull'alimentare abbiamo una legge che ormai è ben consolidata da molti anni. E su quell'aspetto si sta lavorando in Europa per normare anche quella parte della cosmetica? Sì, è un po' complessa, però sicuramente si sta lavorando. Noi tra l'altro siamo soci di IFAM, che è l'associazione internazionale che sta cercando di lavorare proprio per far aderire e organizzare un sistema di controllo specifico anche sulla parte cosmetica, che è sempre più richiesta tra l'altro dai consumatori in tutto il mondo e anche in Italia. Sì, infatti. Sicuramente in forte evoluzione e di grande interesse, certo. E in forte evoluzione comunque anche quello alimentare, i dati lo confermano, no? Quest'anno ne avete presentati con un segno più, ma mica solo un piccolo più, insomma, direi. Beh, effettivamente negli ultimi anni, mentre il mondo convenzionale è abbastanza statico, il mondo del biologico sta crescendo notevolmente a due cifre ben da ormai 7-8 anni qui in Italia, ma è un fenomeno un po' che così si vive in tutto il mondo, non è solo una situazione italiana, ma è una situazione mondiale. I consumatori di tutto il mondo hanno deciso che forse è il momento di stare attenti alla salvaguardia del territorio, alla fertilità della terra, alla pulizia dell'ambiente, quindi insomma è un movimento un po' internazionale, dappertutto c'è questa tendenza alla crescita. Negli ultimi anni in Italia c'è stato un grosso salto in avanti, effettivamente. Voi segnalate nella grande distribuzione i 12 mesi chiusi a maggio 2016 segnano un incredibile più 21%, e che è effettivamente incredibile considerato in generale il settore alimentare, che invece non segna di queste performance. Allora, il 3% della spesa alimentare delle famiglie italiane, con una mezza dozzina di categorie in cui il biologico pesa per almeno il 30%. Quali categorie? Possiamo dirlo? Ma sì, ci sono vari settori, diciamo che sicuramente nell'ultimo anno i settori che sono cresciuti di più sono stati il mondo delle confetture, le uova, sicuramente le uova, i sostitutivi del latte. Un grande apporto alla crescita è stato dato dai latti alternativi, latte di riso, latte di soia, latte di avena. Sicuramente la pasta integrale Farro Camut, i piatti pronti, e poi anche nel settore più tradizionale tipo biscotti, olio di oliva, cereali, legumi e cereali, latte fresco, yogurt e molto anche la frutta e la verdura. Che sono stati l'inizio di tutto questo, ma che adesso insomma sono forse stati superati da questi altri settori che ci diceva. Sì, però anche la frutta e la verdura stanno crescendo, nell'ultimo anno sono cresciute con percentuali interessanti, oltre al 30% anche quelli. Insomma. È cresciuta la richiesta anche dall'estero di questi nostri prodotti italiani? Ma l'Italia è una nazione di forte produzione, allora i consumi in Italia stanno crescendo, la grande distribuzione produzione è cresciuta addirittura del 21% nell'ultimo anno e le vendite di prodotto confezionato nella grande distribuzione rappresentano già il 3,1% del totale vendite. Però non c'è solo la grande distribuzione, un po' in tutti i settori, in tutti i canali il biologico sta crescendo, lo specializzato è sicuramente un ambito molto importante per quanto riguarda l'Italia, ci sono 1200 negozi specializzati che offrono 4-5 mila prodotti esclusivamente biologici certificati. Poi c'è tutto il mondo delle mense che sta decisamente crescendo, la vendita online, i mercatini, i ristoranti, è un settore nella sua globalità che sta crescendo, non solo la grande distribuzione. E questo è sicuramente per voi insomma un segnale dell'interesse che c'è. C'è anche qualche pericolo in tutta questa richiesta, voglio dire, qualcuno che si intrufola e magari non... Dai, i furbetti ci sono sempre e questo è sicuramente un'attività che noi dobbiamo così porre particolare attenzione perché adesso ormai abbiamo quasi 4 milioni e mezzo di famiglie che abitualmente usano questi prodotti e noi non possiamo permetterci di raccontare le loro storie, quindi proprio nell'ambito di Federbio abbiamo organizzato delle piattaforme di controllo specialmente per quelle filiere di produzione più a rischio, tipo i cereali, il riso, il pomodoro, l'olio, dove c'è un controllo proprio di tutta la filiera e tutte le persone, tutte le aziende che fanno parte della filiera devono essere inserite in modo che ci sia un controllo molto, molto preciso su tutte le quantità che vengono acquistate nell'ambito della catena della filiera di questi prodotti. E questo a volte è simpatico perché i giornalisti ci dicono: ma siete controllati, chi controlla i controllori? Siete pagati, le aziende sono pagate, pagano i controllori. Di fatto, come dappertutto, esiste una associazione che è Accredia che così garantisce il controllo di tutti gli enti certificatori, ma Accredia certifica tutte le aziende che certificano, non solo nel biologico, ma anche chi certifica gli ascensori, chi certifica le valvole del cuore, eccetera. Quindi è tipico che le aziende paghino i certificatori, in tutti i settori avviene così. E nessuno mai si immagina che un'azienda possa far cadere un ascensore perché non fa controlli o metta una valvola del cuore scadente, invece delle volte i pomodori pensano che questo avvenga, che ci siano gli imbrogli. Dappertutto possono esserci i furbetti, però anche da noi, specialmente da noi, ci sono dei controlli veramente molto molto attenti. Poi nella vita tutto può succedere, per carità. Certo. Essere esenti dai furbetti è difficile, specialmente in un settore, come diceva lei, che è forte in crescita e quindi qualcuno si può intrufolare, però c'è una particolare attenzione da parte di tutti, così come le ASL, i NAS, cioè noi siamo controllati da tutti gli enti che controllano anche il mondo convenzionale, l'alimentare convenzionale. Sicuramente anche, mettiamo da parte questo capitolo, è anche il momento di tenere duro sui regolamenti del biologico, cioè deve restare così perché abbia questo successo e abbia questa crescita e abbia quelle ricadute di cui dicevamo sull'ambiente e così via, no? Quindi non bisogna mollare neanche su quell'aspetto. No, il consumatore vuole proprio questo, infatti uno degli elementi, se non l'elemento principale, è ma che sia veramente biologico, che sia veramente sicuro, questo vuole il consumatore, quindi da questo punto di vista non si può assolutamente derogare. Ma quello che conta di più non è tanto che bisogna solo non trovare pesticidi nell'ambito del prodotto finito, ma è importante anche che tutto il processo produttivo venga garantito, perché non possiamo permetterci di inquinare comunque l'ambiente, anche se poi sul prodotto finito non si trova niente. È anche l'ambiente che deve essere assolutamente salvaguardato. Pensi che l'Italia è la nazione europea che ha il doppio di consumo di pesticidi in Europa, dopo il doppio della seconda che è la Francia. Quindi noi dobbiamo veramente stare molto attenti, io sono diventato nonno da poco e quindi insomma c'è un particolare impegno da parte mia, ma deve esserci da parte di tutti di lasciare alle future generazioni un ambiente un po' migliore. E sul fronte innovazione quindi sarete anche impegnati, cioè pur mantenendo quel rigore, cambiare in modo da essere sempre meno impattanti, immagino si possa fare anche nel vostro settore, facendo ricerca. Dobbiamo lavorare molto sulla ricerca, sull'innovazione. Assolutamente, dobbiamo porre attenzione alle sementi, al miglioramento delle sementi. Cioè, il biologico non è un prodotto del passato, ma è un prodotto del futuro. Non è un'idea del passato, ma è sicuramente tramite innovazione e ricerca deve essere il mondo dell'alimentazione del futuro. Ha perfettamente ragione. Questa innovazione e questa ricerca la fanno le aziende delle stesse che lavorano in questo settore? Immagino se la facciano ciascuno, cioè debba sostenersela. Ci sono delle aziende sementifere che lavorano su questo, anche ci sono molte aziende agricole che collaborano e quindi si stanno creando delle zone anche in Italia dove proprio si fa ricerca sulle sementi e anche si lavora molto sulle macchine agricole, macchine che possano inquinare il meno possibile nel loro passaggio sul terreno. E certo, perché c'è tutto anche il contorno, ovviamente, che non è solo quando poi dopo vai a prendere la carota, ma anche come l'hai portata lì, come la porti via da lì e così via, no? Quindi una cosa simpatica e che è importante è che il mondo, i giovani stanno sempre più interessandosi a questo settore, c'è un incremento di occupazione, questo è importante, ma c'è un incremento anche di persone, di giovani che lavorano nelle aziende agricole biologiche, quindi insomma i giovani sono attratti da questo nuovo settore, da questo nuovo mondo e credo che questo sia molto importante per il futuro. Sì, sicuramente anche per il futuro dell'agricoltura stessa è importante, no? Perché si è sempre detto un settore in cui gli occupati via via invecchiavano e non venivano sostituiti da giovani, adesso c'è questo passaggio che sta cominciando finalmente ad essere anche numeroso. Vedevo sugli occupati, tra l'altro, nel vostro settore un più 17,5% nel 2015, quindi è un bel numero. Sì, ecco, questo 17,5% è su delle aziende che ci hanno dato delle risposte, dopo in generale probabilmente non sarà così alto, però è sul panel delle aziende di Assobio che c'è questo incremento, ma io credo che in generale almeno un 10% di occupazione in più ci sia, questo è significativo. Tenga conto che l'Italia è una nazione dove i consumi ancora non sono enormi, però è una nazione che produce molto e che esporta. L'Italia è un grande esportatore di biologico, quindi il biologico è un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia e l'11,2% dei terreni in Italia sono già convertiti al biologico. Credo che questo sia significativo e devo dire che anche il Ministero dell'Agricoltura, con il quale lavoriamo in modo fattivo e attivo, sta così puntando su questo settore. Bene, sono contenta di sentire insomma che c'è interesse anche, cioè che c'è un supporto delle istituzioni anche, no? Perché non si può fare le cose da soli. Sono cambiate un po' le cose, no? E recentemente anche con l'Expo che ha potuto così dimostrare la crescita dei vari settori e anche nel mondo del biologico nell'ambito dell'agricoltura in generale, diciamo che c'è stata anche la possibilità di interloquire in modo operativo e anche molto fattivo con la politica, quindi con i ministeri, quindi diciamo che adesso c'è una certa collaborazione che sicuramente è un passo in avanti importante confronto a un passato dove un po' il biologico veniva trascurato. Senta, le chiedo in conclusione su che cosa state lavorando per esempio con il Ministero dell'Agricoltura, cioè un obiettivo che avete adesso da raggiungere. Sicuramente l'obiettivo è di far aumentare i terreni convertiti al biologico, perché noi siamo convinti che più terreni sono convertiti e meglio è per l'ambiente e meglio è specialmente per la salute degli agricoltori. Sono gli agricoltori che sono maggiormente penalizzati da coltivazioni non corrette per la salvaguardia della natura e dell'ambiente. E poi si sta lavorando molto anche su un discorso di esportazione e specialmente sull'attività di garanzia e certificazione, perché come non dobbiamo dimenticare l'aspetto che dicevamo prima, il consumatore deve essere assolutamente garantito che il biologico sia biologico vero. Ma come fate ad aumentare la quota di terreni? Cioè, come può il Ministero aiutarvi in questo? Non è una scelta dell'agricoltore stesso? È una scelta dell'agricoltore, però nell'ambito dei PSR ci possono essere delle sovvenzioni che possono favorire questo passaggio, dei contributi che possono a chi si converte al biologico, servono 3 anni di conversione, ma ci sono dei vantaggi economici perché si converte al biologico. Bene, bene. Grazie molte e a risentirci. Grazie a lei, arrivederci. Ora facciamo una piccola pausa, ringraziando il nostro ospite Roberto Zanoni, presidente di Assobio. Ci ritroviamo tra poco. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo benvenuti da Laura Bettini per la seconda parte dell'altro pianeta, in cui, come promesso, affronteremo un argomento diverso da quello dei prodotti biologici di cui abbiamo trattato prima. Ci occupiamo infatti di ecomusei. Che cosa sono, che ruolo hanno, che quali sviluppi possono avere, ce lo dirà il nostro ospite Andrea Del Duca, che è il direttore dell'ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone. Ben ritrovato. Buongiorno. Allora, cominciamo intanto col dire ai nostri ascoltatori che cos'è un ecomuseo, perché anche qui dal termine un po' si intuisce, però non, secondo me non è chiarissimo. Io stessa ho dovuto un po' approfondire per capirlo. Sì, certo. È un termine effettivamente abbastanza nuovo, nel senso che fu coniato in Francia nei primi anni 70 per indicare un nuovo approccio alla museologia e un po' in generale alle discipline culturali. E, di fatto estende i criteri di ricerca, conservazione e valorizzazione che sono propri di un museo all'intero patrimonio che è presente in un determinato territorio. Quindi, data quest'area con tutte le sue caratteristiche e la popolazione che vi risiede, l'ecomuseo agisce come se fosse un immenso museo all'aperto, cercando di valorizzare tutti quei beni mobili, immobili, materiali ma anche immateriali, quelli paesaggistici, ambientali, eccetera, che fanno parte poi dell'identità di una popolazione di quel territorio. Quindi non è un luogo chiuso? No, assolutamente. L'approccio è proprio quello di uscire dal museo, tradizionalmente inteso. Poi all'interno di un ecomuseo possono esistere anche dei musei, non c'è nulla contro il museo, è semplicemente un uscire dal contenitore e fare del territorio senza imporre vincoli particolari, ma diciamo valorizzarlo e fare le azioni anche di ricerca e di conservazione su tutto l'insieme, perché poi alla fine è un intreccio molto denso di beni culturali, ambientali, di modi di vita che si sono succeduti nel tempo, che costituiscono poi quello che è la manifestazione visibile di tutto questo, che è il paesaggio. Quindi il riferimento poi è anche molto il paesaggio, perché il paesaggio riflette le scelte buone o cattive che nel tempo sono state fatte da una popolazione su un certo territorio. Senta, io lo capisco da un punto di vista così, cioè lei mi spiega e io capisco che cos'è un ecomuseo, però mi risulta un po' difficile capire cosa fate, nel senso che quasi voi dovreste collaborare col sindaco, ma neanche se c'era ancora il presidente della provincia, se ci fosse stato, o ancora sì, di più tra regioni, perché potrebbe essere un ecomuseo che comprende un'area così vasta da coinvolgere delle regioni addirittura. Quindi è un po' difficile immaginare il vostro lavoro poi. Diciamo che tendenzialmente un ecomuseo insiste su aree non troppo ampie, nel senso che devono essere aree che abbiano una certa omogeneità, quindi un ecomuseo sovraregionale non ha molta ragione di esistere. Esistono delle reti di ecomusei all'interno delle regioni, ma certamente, ecco, l'aspetto, lei ha toccato un punto cruciale, perché l'ecomuseo è basato su un patto fondamentalmente che intercorre tra la popolazione e un potere, diciamo, che mette a disposizione risorse, che può essere appunto quello del sindaco, quello del presidente della provincia o della regione, nel caso italiano perlomeno, dove da un lato vengono messe a disposizione quelle che sono le risorse da parte del potere, chiamiamolo così, dall'altro vengono messe a disposizione le risorse culturali, il patrimonio, il proprio modo di vivere. Quindi l'ecomuseo proprio dialoga e fa del dialogo proprio tra queste varie componenti della comunità, diciamo così, dal politico all'artigiano, all'operaio, al contadino, il proprio modo di agire. Per certi versi è molto più importante lavorare su queste dinamiche e questi collegamenti, questi rapporti che esistono sul territorio, riannodare comunità, rifare comunità, ricrearla, piuttosto che fare l'evento in sé. Dopodiché, dal punto di vista delle attività, gli ecomusei fanno azioni anche molto diverse, che vanno dalle escursioni alle attività con le scuole, ad esempio giornate di visita a siti particolari, laboratori artigianali, dimostrazioni di mestieri. Senta, quanti ecomusei ci sono in Italia? Lei dice, ma non nasce come concetto da noi, però insomma sì. Quello del Lago d'Orta e Mottarone c'è, lei lo dirige, sì. Quali altri ce ne, quanti altri diciamo ce ne sono? Grosso modo ne sono censiti un centinaio in Italia, dico grosso modo perché non esiste un catalogo aggiornato e anche la definizione di ecomuseo a volte include o esclude realtà che ne hanno o non ne hanno le caratteristiche, per un problema proprio terminologico, in quanto non esiste una legge nazionale che disciplini gli ecomusei ad oggi, anche se delle proposte di legge sono state presentate. Esistono delle leggi regionali, quindi ogni regione disciplina, o meglio una parte delle regioni, perché sono circa 12 che hanno disciplinato la materia. La prima è stata il Piemonte nel 95, altre poi sono seguite negli anni, e quindi ognuna ha seguito un po' il proprio approccio. Esistono poi degli ecomusei, oltre a quelli riconosciuti, ad esempio quello in cui lavoro io è stato uno dei primi riconosciuto dalla regione Piemonte, esistono altri ecomusei che non sono riconosciuti ma svolgono comunque un'attività meritoria. Diciamo ed è per questo che sta promuovendo questa carta nazionale per gli ecomusei, quindi per poter dare un'uniformità a questo panorama. In qualche modo sì, cioè gli ecomusei italiani hanno deciso dopo alcuni anni, insomma anche legati un po' alla crisi economica in cui si era perso un po' il collegamento tra le diverse realtà, di tornare a ritrovarsi, di fare il punto della situazione, di mettere nero su bianco quelle che sono le caratteristiche degli ecomusei oggi, anche perché gli ecomusei italiani hanno seguito una via un po' diversa rispetto anche ad altre realtà, la stessa Francia dove sono nati, ma penso al Sud America dove hanno un forte sviluppo, oppure o la Scandinavia. E c'è una via italiana agli ecomusei, una via che appunto è stata raccontata in questo documento che si chiama Agenda 2016-2017, è un documento strategico degli ecomusei in cui sostanzialmente si dicono un po' i nodi chiave, insomma, degli ecomusei, fondamentalmente il fatto appunto di voler lavorare con le comunità per sviluppare questa consapevolezza sul paesaggio, sul territorio, ma non solo per fare la bella cartolina, ma anche proprio per affrontare i nodi critici, perché esistono ecomusei che operano in territori che non sono particolarmente belli, però sono interessanti anche per storie magari di recupero ambientale o vicende particolari, eccetera. E quindi ecco, questo ad esempio è una specificità molto italiana che ha suscitato l'interesse degli ecomusei anche del resto del mondo, e adesso è ripartito un dibattito che sta coinvolgendo un po' gli ecomuseologi di tutto il mondo che si trovano appunto in Italia adesso per in confrontarsi su questo documento, e quindi l'Italia è un po' diventata il centro di questa sperimentazione sugli ecomusei. Ma se lei pensa adesso alla sua realtà, che cosa le servirebbe di più che le istituzioni facessero nei confronti degli ecomusei? Beh, certamente il problema delle risorse rimane sempre uno dei punti chiave, perché chiaramente nella misura in cui un ecomuseo svolge un'attività in maniera continuativa ha bisogno di trovare anche risorse per poter continuare la propria attività sul territorio. Più in generale però occorrerebbe la consapevolezza del fatto che gli ecomusei sono degli strumenti importanti per creare non solo per conservare la memoria del passato, che è comunque importante, ma anche per progettare il futuro. In alcune regioni, ad esempio in Puglia, questo è stato abbastanza ormai istituzionalizzato, gli ecomusei sono coinvolti nelle stesure dei piani paesaggistici. in un percorso. Ma in sostituzione di altri enti o con altri? Con altri enti, nel senso che l'ecomuseo si fa carico di coinvolgere gli altri soggetti, la popolazione, nei processi di progettazione partecipata del paesaggio. No, lo chiedevo perché a volte creando nuove strutture si va ad appesantire un processo che già di per sé è complicato. No, certo, no, no. Se voi fate da tramite, quindi invece in realtà vorreste sveltire le cose. Comunque facilitare. Diciamo, ecco. sul paesaggio è cambiato molto con l'approvazione della Convenzione Europea del Paesaggio alcuni anni fa, che ormai è una legge anche in Italia, dove comunque si prevede il coinvolgimento della popolazione sulle scelte. Allora, il problema è come coinvolgere la popolazione in maniera non puramente formale, insomma. Ecco, gli ecomusei non sono l'unico strumento, ma sono uno degli strumenti che può essere messo in campo e l'ambizione oggi degli ecomusei è anche di collaborare, dialogare con le altre realtà che esistono e che si occupano di paesaggio per lavorare assieme e quindi per potenziare soprattutto quella, diciamo, educazione di base alle dinamiche del territorio che consenta poi anche di fare le scelte migliori, insomma, perché poi il paesaggio è in continua trasformazione, il problema è capire in quale direzione andare. Allora, la consapevolezza di quello che è la realtà del territorio, di come funziona, soprattutto su certi territori magari delicati, sia da un punto di vista idrogeologico, ma anche per altre situazioni, insomma, eccetera, può essere alla base anche delle scelte degli amministratori, che se trovano una popolazione consapevole sono aiutati anche per certi versi a non cedere magari a miraggi poi di sviluppo che poi non funzionano, oppure di fare delle scelte che possano portare uno sviluppo durevole, insomma. Questo senza avere preclusioni rispetto a una strada o l'altra, come proprio un metodo che in qualche misura si vuole percorrere. Senta, visto che stiamo in conclusione, diciamo che abbiamo l'ultimo minuto, che cosa posso venire a vedere all'Ecomuseo del Lago d'Orte Mottarone? Cosa fa? Io sono un turista e voglio venire. E che cosa mi suggerisce di fare? Allora, per capire anche che siete un ecomuseo, per l'appunto. Certo, beh, allora noi abbiamo delle camminate sul territorio in alcuni giorni. Sul sito www.lagodorta.net si trova tutto il programma delle attività, soprattutto nelle mezze stagioni, che sono quelle più adatte. Abbiamo queste camminate nel paesaggio proprio per scoprire, le chiamiamo Giro Lago, per scoprire tutto quello che sta attorno a questo territorio e nel territorio, nei suoi nessi. Poi abbiamo tutta una storia molto ricca di mestieri e attività che sono ancora vitali, che sono rappresentate nei nostri poli museali, perché ci sono delle piccole realtà museali o ecomuseali che raccontano queste diverse attività lavorative, per lo più artigianali, ma alcune anche industriali ormai. E più in generale è possibile fare dei percorsi anche proprio su richiesta, accompagnati dagli operatori dell'ecomuseo, a scoprire quello che c'è fuori dai centri principali, insomma, quello che è fuori dal paesaggio cartolina, che pure è molto bello peraltro, e quindi storie particolari come la storia della rinascita del Lago d'Orta, che ha avuto un passato di inquinamento, è stato recuperato, eccetera. Attraverso i nostri operatori, le nostre guide, insomma, i nostri accompagnatori, è possibile scoprire tutta una serie di realtà molto particolari. Allora, visto che c'è, lei suggerisce le mezze stagioni, quindi c'è un po' di tempo per organizzarci, perché arriviamo magari nell'autunno. Grazie ad Andrea Del Duca, direttore dell'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, per essere stato con noi. Buon lavoro e allora buono scambio, buon confronto anche con i colleghi degli altri ecomusei nazionali e internazionali. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.